torniamo insieme a Radio Città Fujiko in questa diretta speciale sullo sgombero congiunto in realtà di Labà e Laboratorio Crash. Tra le voci importanti in città che hanno espresso solidarietà agli attivisti di Labà troviamo la FIOM, i metalmeccanici della CGIL. Noi siamo al telefono con Primo Sacchetti, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Primo, nel vostro comunicato voi parlate di una vigliaccata, quindi insomma parole anche forti. Sì, riteniamo che sia una vigliaccata, almeno stando a quanto ci è stato comunicato per la forma in cui si è svolto lo sgombero, perché a noi peraltro risultava dalle comunicazioni che ci sono state date che era in atto un accordo, quantomeno un tentativo al fine di trovare una soluzione condivisa. Quindi riteniamo che lo sgombero fatto nelle modalità con cui ci sono state comunicate lo riteniamo una vigliaccata. Voi avete avuto modo nei 5 anni dell'occupazione di Labà di avere confronto con quegli attivisti, avete fatto delle cose insieme? Nel vostro comunicato c'è scritto che molti lavoratori e lavoratrici attraversavano quello spazio. Assolutamente sì, noi come FIOM abbiamo più volte, anche quando ci fu il progetto di Unions, noi per varie ragioni abbiamo incrociato quei compagni di Labà, e peraltro in un contesto di assoluta tranquillità e molto pacifico con persone, adesso passano insieme a modo, quindi noi abbiamo anche condiviso alcune cose, fatto progetti con loro. Non passa inosservato il fatto che lo sgombero arrivi l'8 di agosto, quando la città è pressoché deserta. Esattamente, nel concetto di vigliaccata io credo che ci sia anche questo, perché fare uno sgombero l'8 di agosto con la città deserta e quindi lasciando praticamente da solo quei ragazzi dentro, lo troviamo che sia una roba anche fuori luogo. Una tua valutazione sullo stato più generale della situazione in Italia, anche da questo punto di vista, questo sgombero rientra in una dinamica che stiamo vedendo oppure è una cosa a sé stante? Ma io mi auguro che non stia dentro ad un progetto politico che sarebbe ben grave, quindi mi auguro che sia un atto, qualcosa che possa in quanto meno rientrare. Come abbiamo detto anche nel comunicato, lo riteniamo assolutamente fuori luogo, e qualora ci sia in atto un progetto che veda lo sgombro di questi spazi e quindi che venga meno la democrazia in confronto a questi livelli, lo trovo davvero assolutamente grave. Quindi mi auguro e ci auguriamo almeno come FIOM che si possa ritornare alla normalità e quindi avere un confronto con chi persone che peraltro a Bologna hanno anche su tanti argomenti hanno dato anche un punto di vista loro, in alcuni casi è stato anche condivisibile, al di là delle forme, no? Però loro partono, a mio avviso, da un progetto che è condivisibile.